perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Gelo nel centro e sud Italia, caos viabilità in Abruzzo e circa 300.000 persone sono senza elettricità, un morto assiderato in Puglia, roghi nei dintorni di Genova per la siccità e il vento. Secondo la procura, Stefano Cucchi fu picchiato dai carabinieri e morì per quello. Si chiudono le indagini nel processo bis per la sua morte, accuse di omicidio, calunnia e falso per i militari. La premier britannica sta presentando in questi minuti il suo piano per l'uscita dall'Europa. Abbandoniamo l'Europa e costruiamo una Gran Bretagna mondiale, dice. Intanto parla il presidente della Repubblica Mattarella su Bruxelles, si occupi di crescita e occupazione. L'Europarlamento intanto vota per l'elezione del presidente. In netto vantaggio il popolare Antonio Tajani, il socialista Pittella, sostanzialmente fuori dai giochi. Bambini usati come spacciatori e per confezionare le dosi, alcuni avevano anche 10 anni, 45 arresti a Napoli, smantellato un clan. Ricorso d'urgenza della SIAE contro la rivendita dei biglietti degli U2, contro il bagarinaggio online, nuovi metodi a partire dal concerto di Vasco. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it invece se ci volete scrivere. In apertura ci occupiamo dell'ondata di freddo che sta investendo una parte dell'Italia, sta creando grandissime difficoltà, soprattutto in Abruzzo, c'è una vittima in Puglia. Anna Marino, buongiorno. Buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. Chiesto alla fine lo stato di emergenza in Abruzzo, dove un quarto degli abruzzesi, 300.000 persone, sono senza luce. A Teramo ormai da ore continuano le bufere di neve, come dicevi, e pioggia. Anche oggi molte scuole sono rimaste chiuse con i blackout, interruzione di riscaldamento, e la neve ormai è alta fino a un metro anche tra le province di Teramo, Pescara e Chieti. E caos viabilità, chiusa per ore la A14 Bologna-Taranto a causa di un cavo dell'alta tensione abbattuto sulla carreggiata da una forte nevicata. Ora è riaperta ma solo nel tratto tra Pescara e Lanciano Ovest. Una vittima nel Brindisino, come dicevi, un uomo si è addormentato per strada ed è morto assiderato. Altri 50 centimetri di neve nelle Marche, 12.000 utenze senza luce. Si contano i danni nel centro-sud, in particolare nelle zone terremotate, dove allevamento e ortofrutta sono messi in ginocchio dal maltempo. Costi energetici alle stelle, potrebbero costare, secondo la Confederazione Italiana Agricoltori, al sistema nazionale ben oltre 1 miliardo di euro. Problemi di viabilità per la neve anche in altre strade, chiusura al traffico si sono registrate in Sicilia, mentre fra Toscana ed Emilia Romagna è stato chiuso un tratto della E45, e al nord gelo polare in Val d'Aosta, meno 30 sul Monte Bianco. Il vento forte fa da protagonista con la bora che a Trieste soffia oltre 140 km orari, mentre in Liguria la burrasca viaggia a 150 km orari. Situazione difficile anche in Sardegna e sulle isole, con gelo e mareggiate. Per ora è tutto. E grazie Anna Marino per questo aggiornamento. Su tutto questo torneremo più avanti, ne parleremo con la Protezione Civile Abruzzese. Andremo nelle zone terremotate delle Marche per vedere com'è la situazione, poi andremo anche a Genova, dove gli incendi hanno colpito i dintorni della città e costretto anche all'evacuazione di alcune persone che al momento per fortuna sono rientrate nelle loro case. Siamo ancora alla cronaca e al caso di Stefano Cucchi. Bisogna resistere e avere fiducia nella giustizia, così Ilaria Cucchi dopo la svolta nell'inchiesta bis sull'omicidio del fratello Stefano. Il violentissimo pestaggio del giovane romano, arrestato la sera del 15 ottobre del 2009, si è trasformato in un capo di imputazione a carico dei tre carabinieri indagati, che ora sono accusati di omicidio preterintenzionale aggravato. I militari dell'arma Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro e Francesco Tedesco, che arrestarono Cucchi, lo colpirono, si legge, con schiaffi, pugni e calci, provocandone tra l'altro una rovinosa caduta, dalla quale derivarono lesioni personali in parte permanenti che determinarono, si legge ancora, la morte avvenuta una settimana dopo. Smontata l'ipotesi dell'epilessia, nell'atto di chiusura delle indagini di fatto si sottolinea come Cucchi avrebbe perso la vita per cause connesse alla frattura delle vertebre. Lo stesso Tedesco ed il maresciallo Roberto Mandolini sono accusati anche di falso in atto pubblico, ed insieme all'altro militare dell'arma, Vincenzo Nicolardi, di calunnia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono molti i temi europei di oggi, molte le notizie che si incrociano in queste ore, a partire dal discorso che sta tenendo in questi minuti la premier britannica Theresa May per parlare della Brexit e della sua strategia per la Brexit. Vediamo di fare un punto di quello che è emerso finora da questo discorso, che lo ripetiamo, è ancora in corso in questi minuti, con Valeria De Rosa. Valeria. Sì, buongiorno Simone, a te e ai nostri ascoltatori. E appunto, come dicevi, Teresa May sta ancora parlando, quindi fino a questo momento possiamo riassumere quello che ha detto e quello che un po' già si sapeva, perché appunto erano uscite delle anticipazioni ieri. Allora, la May sta tenendo un discorso molto fermo ma anche molto pacato nei confronti dell'Europa e quindi sull'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, tant'è che ha appunto ribadito con forza: noi usciamo dall'Unione Europea ma non usciamo dall'Europa, perché comunque condividiamo i valori dell'Europa. Però c'è stata poca flessibilità e di questo l'Europa deve tener conto, quindi il referendum sulla Brexit deve essere una lezione perché l'Unione Europea non si smembri, perché la May ha detto: a noi servono dei vicini forti, ci serve un'Unione Europea che sia forte. Detto questo, la May ha sottolineato più e più volte alcuni termini fondamentali per questo cammino: una Gran Bretagna più forte, una Gran Bretagna, lei ha usato il termine fair, in questo caso non è proprio come traduzione, non è più giusta, ma comunque diciamo più forte sui mercati, quindi dal punto di vista delle negoziazioni deve essere più equo, devono essere più equi gli accordi, e globale, una Gran Bretagna globale. Questo vuol dire che su tutti i mercati la Gran Bretagna giocherà alla pari, ed è questo, diciamo, l'obiettivo di Theresa May, che si prefigge con questo discorso di convincere tutti coloro che anche all'interno del suo partito negli ultimi mesi l'hanno accusata di essere troppo vaga sul percorso da tenere per quel che riguarda la Brexit. Questo ovviamente è un discorso fermo, come dicevamo, una clean Brexit, quindi un'uscita pulita, totale, ma che poi dovrà vedersela con i negoziati veri e propri, perché da questo momento in poi partono i negoziati con Bruxelles e non è detto che Londra possa mantenere tutte le proprie posizioni, anzi probabilmente dovrà scendere a qualche compromesso. E grazie dunque a Valeria De Rosa. Rapporti difficili con l'Unione Europea, non solamente quelli britannici ma anche i nostri, a proposito soprattutto della manovra e dei conti pubblici. Sentiamo. La Commissione Europea torna dunque in pressing su Palazzo Chigi con la richiesta di aggiustamento dei conti, richiesta che Bruxelles aveva già messo nero su bianco nell'opinione di novembre sulla legge di stabilità e che l'Eurogruppo aveva sottoscritto il 5 dicembre, invitando Roma a compiere i passi necessari per rimettersi in linea con le regole. In ballo c'è il rischio di una procedura per debito eccessivo che costringerebbe il nostro paese ad un pesante percorso di aggiustamento. Per scongiurarlo, il commissario agli affari economici Moscovici vorrebbe allora una correzione dello 0,2% del PIL, pari a circa 3,2-3,4 miliardi. Dal Ministero dell'Economia massima disponibilità alle richieste europee. Vedremo se sarà il caso di prendere misure ulteriori per rispettare gli obiettivi, ma la via maestra è la crescita, che è la priorità del governo, avverte però il ministro Padoan. In realtà il governo da settimane sta dialogando con la Commissione europea per trovare un punto di caduta che tenga insieme il rispetto delle regole europee e la necessità di non fermare il cammino della ripresa. Anche per questo non si parla di manovra bis, ma di un'attenzione particolare alla lotta alle, visto che le altre due strade, nuove tasse e tagli di spesa, restano per motivi diversi impraticabili. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Restiamo sul fronte europeo, però ci spostiamo su quello dell'Europarlamento. Si sta votando per l'elezione del presidente e, Sergio Nava, mi sembra che la prospettiva che il presidente dell'Europarlamento diventi Antonio Tajani ormai è cosa quasi fatta, no? Quasi fatta, ma non ancora del tutto certa, Simone. Proprio in questi istanti, mentre vi sto parlando, è partita la seconda votazione all'Europarlamento dopo che la prima votazione della mattinata non è riuscita a eleggere il presidente dell'Assemblea di Strasburgo. Antonio Tajani si è fermato a una settantina di voti dalla maggioranza necessaria, con 274 consensi, sotto le aspettative il socialista Gianni Pittella con 173, molto staccati tutti gli altri, con la terza candidata italiana Eleonora Forenza della sinistra quinta con 50 voti. La vera notizia della giornata per il momento però è la rottura della grande coalizione definitiva tra socialisti e popolari, coalizione che ha dominato i primi 2 anni e mezzo di legislatura. Nella notte i popolari hanno raggiunto un accordo programmatico con i liberali di Guy Verhofstadt, che si è dunque ritirato dalla corsa alla presidenza, incrementando notevolmente le possibilità di Tajani di venire eletto in tempi rapidi senza dover aspettare la quarta e ultima votazione serale col ballottaggio ristretto ai 2 candidati più votati. Se Tajani ha grosse possibilità di venire eletto, è ancora difficile prevedere quando, né scartare del tutto sorprese dell'ultima ora, anche perché non tutti i deputati liberali hanno digerito l'accordo col centrodestra, come emerso anche dalla prima votazione. Il round di votazione attualmente in corso sarà molto indicativo per capire se le due principali candidature, Tajani e Pittella, stanno cominciando ad aggregare i voti degli altri contendenti che nella prima votazione, bisogna dire, sono riusciti a fare tutti molto bene. Staremo dunque a vedere, ti restituisco la linea, Simone. E grazie dunque a Sergio Nava per questi aggiornamenti. Ancora l'Europa e in questo caso la questione delle emissioni di Fiat Chrysler, gli aggiornamenti. Fiat Chrysler vola in Europa e chiude il 2016 con le vendite in crescita del 14%, un incremento superiore a quello del mercato, aumentato del 6,5%. La quota di mercato del gruppo sale dal 6,1% del 2015 al 6,6%. Anche a dicembre FCA ha messo a segno una crescita a due cifre pari a 13,4% a fronte di un aumento del 3,2% del mercato. Il gruppo automobilistico, sotto accusa negli Stati Uniti per le emissioni delle auto diesel, registra così un anno record in Europa con vendite superiori alla media del mercato. L'inchiesta statunitense ha acceso lo scontro tra la Germania, reduce dal caso Volkswagen, e l'Italia sulle emissioni diesel, con il Ministero dei Trasporti tedesco che chiede all'Unione Europea che sia garantito il richiamo di Fiat 500, Doblò e Jeep per i controlli. Occasione per un chiarimento bilaterale potrebbe essere il forum Italia-Germania in calendario domani a Berlino con la cancelliera Angela Merkel e il premier Paolo Gentiloni. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ci spostiamo in Turchia perché è stato arrestato l'attentatore di Istanbul. Sentiamo. Abdulkadir Masharipov ha confessato, è lui l'attentatore che ha firmato la strage di Capodanno alla discoteca Reina di Istanbul. Lo ha detto il governatore della città Vasip Shahin in una conferenza stampa dopo l'arresto dell'uomo avvenuto ieri sera in un appartamento definito di lusso ad Esenyurt, quartiere nella periferia occidentale di Istanbul. Masharipov è uzbeko, è nato nel 1983 e parla quattro lingue. Sempre secondo quanto ha riportato il governatore, è stato addestrato in Afghanistan ed è entrato nella Turchia orientale nel gennaio 2016. Con lui la polizia ha trovato un iracheno e tre donne, una senegalese, un'egiziana e una somala. Anche il figlio di 4 anni di Masharipov, che è stato poi affidato ai servizi sociali, era con lui. La polizia sapeva da circa 3 giorni qual era il nascondiglio del terrorista, ma ha aspettato ad effettuare l'arresto per vedere chi andava e veniva dall'abitazione. Una lunga operazione che ha visto impiegati 2.000 uomini e la collaborazione tra polizia ed intelligence iniziata subito dopo l'attacco e che, dopo le prime incertezze e i primi errori, ha condotto alla l'arresto del terrorista. Un risultato importantissimo che potrebbe ora portare ad altri arresti e permettere agli inquirenti di dare una risposta ai molti interrogativi sulla strage. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. A Napoli ora, dove in una maxi operazione con 45 arresti è emerso l'utilizzo di minorenni per lo spaccio e il confezionamento di droghe. Una bambina di 8 anni veniva utilizzata per confezionare le dosi di cocaina e un bambino di 12 anni invece per consegnare le varie dosi ai diversi acquirenti per strada nelle piazze di Napoli. Così il comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, il colonnello Ubaldo Del Monaco, ha raccontato come il clan camorristico degli Elia utilizzasse bambini, tutti di età inferiore ai 14 anni e dunque non imputabili, per confezionare dosi di droga o consegnarle a domicilio. Scoperti anche casi di estorsioni sia ad un ristoratore costretto a corrispondere il pizzo che ai pusher di strada presenti sul territorio. È questo lo spaccato che emerge da un'indagine dei Carabinieri coordinati dalla DDA di Napoli, che ha portato all'arresto di 45 persone, tra cui 17 donne. Queste 45 persone sono tutte ritenute a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, spaccio di droga, estorsioni e detenzione e porto illegale di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. Ricostruito dagli investigatori anche l'organigramma del clan camorristico degli Elia, che controlla gli affari illeciti nel centro di Napoli tra Piazza del Plebiscito e Via Santa Lucia, a ridosso del lungomare. Adriana Fracchi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alle vicende del cosiddetto bagarinaggio online. La SIAE ha fatto ricorso d'urgenza sulla rivendita dei biglietti per il concerto degli U2 dopo la sospensione ieri di 600 tagliandi. Intanto si cerca di correre ai ripari e si cercano nuovi metodi, presumibilmente già dal concerto di Vasco. Marta Cagnola, buongiorno, eccoci. Buongiorno, sono qui alla sede milanese della SIAE per la presentazione del concerto di Vasco del 1° luglio al Parco Ferrara di Modena. Un'attenzione grandissima, sicuramente per il nome di Vasco, la cui presenza però non era comunque prevista in conferenza, ma soprattutto per l'annuncio di un nuovo sistema di vendita di biglietti. Il management di Vasco ha scelto un nuovo soggetto, si chiama Viva Ticket, che poi è la società che si era occupata della biglietteria di Expo. Una lotta al bagaglinaggio online organizzato, sottoponendo la filiera a tutti i controlli con l'appoggio di SIAE. Tutti i biglietti saranno nominativi, le vendite si apriranno il 24 gennaio per il fan club e il 27 per tutti. Ci saranno limitazioni a 6 biglietti per transazione, massimo 2 transazioni per carta di credito. I biglietti poi verranno spediti fisicamente via corriere dalla prima settimana di maggio. Ovviamente i fan di Vasco vogliono sapere i prezzi. Pit 1 75 euro, pit 2 65 euro, pit 3 50 euro. E intanto la SIAE questa mattina ha presentato un ricorso d'urgenza al Tribunale Civile di Roma, lo dicevi, in merito al caso della rivendita dei biglietti dei concerti degli U2. Come ha raccontato il direttore generale della SIAE Gaetano Blandini, dopo 25 minuti dall'apertura della vendita dei biglietti sui canali ufficiali, erano in vendita sul mercato secondario i biglietti a prezzi notevolmente maggiorati, fino a 2.600 euro. E per ora è tutto. Grazie dunque anche a Marta Cagnola per questo aggiornamento. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia, che ci parlerà molto di quello che sta succedendo a causa del maltempo e anche del vento e della siccità, che stanno portando una serie di incendi a Genova e nel genovese. Andremo in Abruzzo, andremo in uno dei comuni terremotati delle Marche, andremo appunto a Genova, stiamo cercando di rintracciare qualcuno anche in Sardegna, dove la situazione è altrettanto difficile. Intanto traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del gelo nel centro e sud Italia, abbiamo parlato dell'inchiesta business per Stefano Cucchi, per la morte di Stefano Cucchi, abbiamo parlato di Theresa May che sta presentando in questi minuti il suo piano per la Brexit e abbiamo parlato di quello che sta succedendo anche all'Europarlamento. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia a parlare oggi molto di quello che sta succedendo a causa del gelo, delle nevicate, del maltempo, del vento forte, e iniziamo subito dall'Abruzzo. Torna da noi, così come è stato ieri da noi, Mario Mazzocca, che è sottosegretario alla presidenza di regione con delega alla protezione civile. Mazzocca, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno. Situazione peggiorata, da quel che abbiamo capito, secondo i vostri calcoli, sulla base delle circa 150.000 utenze distaccate, ci sono 300.000 persone senza luce, e da quel che ho capito a Teramo ci sono anche delle persone senza riscaldamento in questa situazione. Sì, devo dire che i dati sono ancora questi, siamo a 159.000 utenze, quindi siamo ben oltre le 200.000 abitanti stimati. Gli aggiornamenti che ci stanno pervenendo proprio in questi minuti da Enel ci dicono come buona parte della città di Teramo, per quanto attiene le cabine primarie dell'alta e della media tensione, dovrebbero essere in via di soluzione. Fermo restando che alle 13 di oggi le utenze comunque permangono ancora. Sì. Mi sembra di aver capito che c'è qualche rischio soprattutto per le persone che sono attaccate a macchine salvavita, no? O da quel punto di vista siete riusciti a risolvere? Beh, i rischi in queste situazioni sono soprattutto quelli legati a quei cittadini che hanno particolari disagi di natura sanitaria e che comunque, per quanto riguarda almeno il tema della raggiungibilità delle strutture dei presidi con i nostri volontari di protezione civile, per esempio nell'ospedale di Azi siamo riusciti, anche grazie a Nasmar che ci ha messo a disposizione la turbina, a raggiungere. C'è anche Mazzocca un problema di strade, mi sembra di aver capito, no? Piuttosto forte, come abbiamo sentito poco fa, tra l'altro, dagli aggiornamenti. Sì. Anche se in queste ore sembra che l'allentamento delle precipitazioni ci stia un po' agevolando le operazioni di pulizia. Purtroppo c'è una previsione meteo per la tarda serata, nottata e giornata di domani che prevede invece una recrudescenza del fenomeno, addirittura una amplificazione del fenomeno, non poco. Naturalmente. E ci riserviamo magari di richiamarla domani, Mazzocca, per avere altri aggiornamenti. Intanto io la ringrazio, grazie per essere stato con noi. Mario Mazzocca, sottosegretario della Presidenza di Regione Abruzzo, con delega alla Protezione Civile. E ci spostiamo in provincia di Ascoli Piceno, ad Acquasanta. Siamo in linea col sindaco Sante Stangoni. Sindaco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, lei ha lanciato un vero e proprio allarme nelle scorse ore, cioè un metro di... Sì, ma l'allarme rimane, anzi è peggiorato, perché noi continuiamo ad avere grossi problemi e abbiamo sempre più frazioni isolate, anche i nostri mezzi non ce la fanno più. Io mi auguro che qualcuno, diciamo, a livello nazionale possa mandare, visto che ci saranno sicuramente dei mezzi per risolvere questi problemi nella nostra zona e cercare di ridare un po' di viabilità almeno principale. Non riesce nemmeno ad avere contatti con la gente che si trova nelle frazioni, o è riuscito a parlarci? No, io ci riesco a parlare, però ovviamente hanno necessità anche di viveri di prima necessità. Adesso con la Protezione Civile stiamo cercando un attimo quella locale di riuscire ad arrivare dappertutto, ma avendo 54 frazioni, avendo 240 chilometri di strade interne, si rende conto, abbiamo situazioni anche dove ci sono un metro e mezzo, due di neve, quindi non è semplice. Anche alcuni mezzi appunto importanti che servono per la pulizia delle strade sono rimasti bloccati, è una situazione un po' difficile, ecco. Senza dimenticare che noi veniamo da un 24 agosto e da un 30 ottobre. Sì, perché voi siete tra i comuni colpiti dal terremoto, no? Sì, e le strade sono anche molto più strette, proprio perché ci sono state diverse frane quando c'è stato il sisma, ci sono alcune zone dove ci sono le macerie purtroppo di alcuni edifici demoliti, quindi non abbiamo nemmeno quella possibilità e queste superfici ampie per poter lavorare. Io quindi l'appello mio è che penso che ancora in Italia si possa, almeno in questa emergenza, intervenire. È riuscito a sentire qualche suo collega, qualche altro sindaco della zona? No, le dico la sincera verità, non ho avuto tempo. Non ha avuto tempo, evidentemente. Insomma, mentre invece per quanto riguarda l'abitato principale, la situazione è abbastanza tranquilla o no? L'abitato principale è lungo la Salaria, ma la stessa Salaria ha grossi problemi, perché poi passano i mezzi, ma nel giro di pochissimo tempo la neve, che sta scendendo copiosa ormai da 48 ore e non accenna minimamente a diminuire, riproduce subito un manto importante. La ringrazio, rilanciamo il suo appello evidentemente a far sì che qualcuno vada ad aiutare Acquasanta in provincia di Ascoli Piceno e il sindaco Sante Stangoni, così come tutte le persone che evidentemente si trovano nella stessa situazione di Stangoni, e probabilmente ce ne sono molte all'interno di questa stessa area che, come ci ha ricordato lo stesso Stangoni, è stata anche colpita dal terremoto. Situazione diversa a Genova, siamo in linea con l'assessore comunale della Protezione Civile Gianni Crivello. Assessore, buongiorno. Buongiorno a voi. Situazione diversa perché non nevica, ma il vento è fortissimo e c'è stata questa mattina, tra l'altro, tra la notte e la mattina, ci sono stati degli incendi molto violenti che mi hanno costretto addirittura ad evacuare delle persone, no? Indubbiamente sì. Ieri la criticità forte era sulla zona del Levante, quindi Nervi, Sant'Ilario, quelle zone limitrofe. Dal pomeriggio, devo dire, poi verso la serata abbiamo presidiato con i vigili del fuoco, insomma, fatto il possibile, allontanato ieri sera delle persone nella zona. Poi, quando sembrava, come dire, non dico risolto, ma governato in maniera adeguata quella criticità, sul ponente questa mattina verso l'alba, quindi nella zona di Pegli, nella zona del Varenna, della Val Varenna, in questo momento io mi trovo dentro una delle più belle ville della città, che è Villa Pallavicini, che anch'essa, ahimè, è stata colpita da questo incendio. Abbiamo i Canadair che stanno agendo con colpita, impegno, colpita nel senso danneggiata? Danneggiata da incendio, quindi abbiamo alcune realtà che stamane abbiamo evacuato circa 270 persone che poi sono rientrate nella zona di via Salgari. In questo momento siamo appunto nella zona più della Val Varenna, dove vi è questa villa, ma anche alcune abitazioni che sono a rischio. In tutto ciò mi sembra di aver capito, allora, prima di andare anche sul resto, perché poi il vento forte sta creando problemi anche di altro tipo, assessore, sugli incendi, la situazione è quasi sotto controllo o, come dire, siete ancora in ballo, per così dire? Io credo che la stiamo controllando, ma guai ad abbassare la guardia, perché il bollettino meteo, peraltro, un monitoraggio conferma che questo triangolo nero, che è il massimo della criticità, quindi vento di burrasca, si protrarrà anche per tutta la notte, a domani. E quindi quando poi a una certa ora i Canadair non potranno più volare, ecco, la situazione potrebbe peggiorare di nuovo. Tra pochi secondi vado in prefettura, che il prefetto avevo convocato un incontro ad hoc. Sì, poi vento che crea problemi naturalmente anche alle barche, ce ne sono una serie che sono affondate. Voi sapete, vi siete già fatti un'idea se questi incendi sono dolosi oppure no, assessore? Guardi, io, come ovvio, le mie competenze sono altre. Qualcuno mi diceva che non è escluso, ma adesso risolviamo le criticità e poi, se è il caso, ci saranno dei responsabili, spero che siano puniti duramente, a dir poco. La ringrazio, grazie a Gianni Crivello, assessore alla Protezione Civile del Comune di Genova, buon lavoro a lei più che a noi. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi dopo aver fatto tutto questo giro tra la Protezione Civile per capire quello che sta succedendo, posto che siamo ancora in attesa e magari riusciamo a contattare qualcuno in Sardegna, dove, come si diceva, la situazione resta difficile perché ci sono scuole chiuse in molte parti della regione, traffico in tilt, traghetti bloccati a Olbia, solo per darvi qualche esempio, vedremo se riusciremo a raggiungere qualcuno. Vi parleremo di un'altra storia, una storia che arriva da Torino, dove c'è quello che sembra essere il primo caso in Italia. Per un truffatore online è stato deciso l'obbligo di dimora virtuale. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima di connettersi a internet deve parlare con i poliziotti e avvertirli che si sta per connettere a internet. Ne parleremo col giudice che ha disposto questo provvedimento, anche per capire ma come si fa a controllare davvero. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto, a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: gelo nel centro e sud Italia, caos viabilità in Abruzzo, circa 300.000 persone senza elettricità, un morto assiderato in Puglia e roghi nei dintorni di Genova. Secondo la procura, Stefano Cucchi fu picchiato dai carabinieri e morì per quello. Si chiudono le indagini nell'inchiesta bis per la sua morte. La premier britannica presenta il suo piano per l'uscita dall'Europa. Intanto Mattarella su Bruxelles dice si occupi di crescita e occupazione. L'Europarlamento vota per l'elezione del presidente, in netto vantaggio il popolare Antonio Tajani, il socialista Pittella sostanzialmente fuori dai giochi. Bambini usati come spacciatori per confezionare dosi, alcuni avevano anche 8 anni, 45 arresti a Napoli, smantellato un clan, la borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, e siamo in linea col dottor Pietro Capello, che è presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Torino. Dottor Capello, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno. Allora, leggo dal titolo, la notizia l'abbiamo pescata sul quotidiano La Stampa, il titolo è obbligo di dimora virtuale al mago delle truffe online. Ora, mago, forse un po' esagerato, perché non è che facesse qualcosa di pazzescamente elaborato. Andava su subito.it o su eBay, comprava delle auto con degli assegni non coperti o falsi, dando false generalità, e poi rivendeva queste auto. Quindi non è che fosse proprio questo mago pazzesco. La cosa interessante è questo obbligo di dimora virtuale che lei ha disposto e che al momento, da quel che ne sappiamo, ci risulta essere il primo caso in Italia. Obbligo di dimora virtuale vuol dire che deve avvisare i poliziotti prima di connettersi a internet, ho capito bene? Diciamo, non è proprio così. Se posso spiegare... Certo, l'abbiamo chiamata apposta. Certo, occorre premettere che in caso di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il Tribunale deve anche impartire delle prescrizioni che sono elencate nel codice antimafia, che raccoglie un po' tutta la normativa, no? In materia di prevenzione. Però siccome si tratta di un'elencazione molto vecchia e solo esemplificativa, il Tribunale può anche applicare altre prescrizioni che, oltre ad essere necessarie, siano anche più adatte, diciamo così, al caso concreto. Ai tempi, certo, e ai tempi, certo. Allora, in alcune procedure di prevenzione nei confronti di soggetti appunto dediti alla commissione di truffe via internet, il Tribunale ha prescritto a queste persone di comunicare all'autorità di sorveglianza, cioè ai carabinieri e alla polizia, gli account e gli indirizzi email eventualmente utilizzati per fini commerciali, al fine di poterli monitorare e controllare. Semplicemente questo, cioè la dimora virtuale è un po'. Sì, un po' altisonante, diciamo così, però, però in sostanza è questo il punto. Anche mi spiega una cosa. Si tratta di soggetti, non particolarmente. Sì, non particolarmente pericolosi. C'è una cosa che non capisco, dottor Capello, come si fa a controllare? Perché, insomma, sa, se uno ha l'obbligo di firma, nel momento nel quale non firma, lo becchi, no? E punto, cioè a quel punto diventa un latitante sostanzialmente. Se invece in questo caso è decisamente più complicato, perché uno di indirizzi email se ne può creare quanti ne vuole, con identità fittizie, con eccetera eccetera. Come si fa in questo caso dal punto di vista tecnico? Io devo dire subito che naturalmente è vero, il controllo è molto difficile, noi abbiamo ritenuto come tribunale di impartire questa prescrizione e poi naturalmente gli aspetti tecnici dovranno essere poi curati dall'autorità di sorveglianza, ad esempio penso tramite la polizia postale, poi in concreto può anche darsi che poi questa sia una prescrizione di difficile applicazione in pratica. È comunque un tentativo di bloccare per quanto possibile queste persone che non saranno tanto pericolosi ma creano effettivamente danni economici a molta gente. A suo giudizio, dottor Capello, serve una legge di qualche tipo che regolamenti la sorveglianza e il controllo di queste persone, o gli strumenti che avete a disposizione sono adeguati? Cioè ci si può affidare, mi permetta la brutalità, alla fantasia del tribunale nell'applicare una normativa che ormai è vecchia? No, io penso che no, la normativa, questa normativa in generale è una normativa vecchia, però si può, diciamo così, si può rendere più attuale appunto in questo modo, cercando anche di trovare nuove prescrizioni, e secondo me è possibile anche renderla più snella e più moderna, però dando questa possibilità a chi poi si trova ad applicarla concretamente, tutto sommato va già bene così, ecco, forse non è necessario rivedere tutta la materia. Naturalmente lasciare le cose a un potere discrezionale può essere anche criticato, ma insomma facciamo quello che si può. Allora io la ringrazio, grazie a Pietro Capello, che è presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Torino, per essere stato con noi. Come avete capito, c'è qualcosa di nuovo in ballo e il Tribunale, la giurisprudenza cerca di muoversi sotto questo fronte. Un ultimo aggiornamento prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade: era una delle nostre principali notizie di oggi, ve l'abbiamo detto anche nei titoli, è il discorso molto importante che sta tenendo la Premier britannica Theresa May sulla Brexit. Come avete sentito anche dall'aggiornamento di mercato, si attendeva un discorso molto duro, le anticipazioni di stampa parlavano di una hard Brexit, mentre invece è stato più morbido. La Premier britannica Theresa May dice che vuole un accordo con l'Europa sulla Brexit entro 2 anni, con un'implementazione graduale delle intese. Ma prima di chiudere, andare a sentire cosa succede sulle strade, siamo riusciti a raggiungere qualcuno della Protezione Civile in Sardegna per avere un punto della situazione, dove anche là la situazione è difficile a causa della neve e delle nevicate. Pietro Massidda, che ci parla dalla sala operativa della Protezione Civile sarda. Buongiorno Massidda, benvenuto. Buongiorno a tutti, salve. Com'è la situazione? Ci dà un quadro? Sì, il quadro, diciamo, abbiamo delle criticità abbastanza estese in tutta la regione, abbiamo numerosi interventi da parte delle organizzazioni di volontariato, dell'agenzia Forestal con mezzi e uomini, e quindi stiamo operando in diversi comuni del territorio regionale, quindi più che altro sì, per liberare le strade dei comuni e poi anche per liberare le strade che portano alle aziende agricole. Certo, e dove si concentrano in particolare le difficoltà, in che provincia? Provincia, abbiamo tutte le province, la provincia di Sassari, la provincia della Gallura, abbiamo lo Jastra, abbiamo anche il Nuorese in particolare. E anche qualcosa del Montiferru, insomma. Risultano zone isolate, problemi di elettricità e cose simili? No, c'è stato un piccolo problema a Ozieri, ma penso che è in via di risoluzione, niente di particolare. La ringrazio, grazie Pietro Massidda dalla sala operativa della Protezione Civile Sarda per essere stato con noi. Adesso il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.